Sound check, il suono della musica di Gegè Telesforo. Pronti per il soundcheck della domenica, come sempre una puntata più jazz. Buonasera a tutti voi da Gegè Telesforo, qui dal Groove Master Studio con nostro ospite. Vediamo oggi il ritorno di un grande appassionato di jazz, tanto vicino alla nostra musica che un bel giorno decise di diventare editore di quella che poi col tempo, ormai da quanti anni pubblichi? 20 anni, quella che è diventata una delle riviste di riferimento del jazz del nostro paese, ovvero Jazzit. E questo mio amico si chiama Luciano Vanni, che ringrazio per la partecipazione. Grazie a te per l'invito. Sì, dicevo, una delle riviste, ma possiamo dirlo tranquillamente, le riviste sono due, la storica Musica Jazz, che ha aperto i battenti ormai da quanti anni? Dal 45 con Arrigo Polillo, poi vari direttori, e quindi salutiamo tutto lo staff anche di Musica Jazz, e poi la più giovane Jazzit, che si è imposta sul mercato dell'editoria con un'impaginazione molto accattivante e un taglio sicuramente moderno. Inoltre credo la forza di Jazzit sia anche in un indotto che poi siete riusciti a creare, che coinvolge il digitale, internet e anche l'organizzazione di manifestazioni più o meno importanti, sempre con un obiettivo: sostenere l'arte, la buona musica e gli artisti jazz italiani. Sì, l'idea è sempre stata, è un atto d'amore, ecco. Inizialmente, parliamoci chiaramente, è un mestiere ma che inizia con un atto d'amore per la musica, nello specifico del jazz. L'idea era quella di offrire a chi ama il jazz un qualcosa di bello ed importante, quindi curiamo in maniera artigianale, proprio a conduzione familiare, ogni singolo numero con una cura particolare dei contenuti, e sono felice del fatto che noi ospitiamo firme internazionali come Ashley Khan, che ha vinto il Grammy Awards per il giornalismo musicale, e David Schrader, che è il direttore della New York University, Stuart Nicholson, che scrive per Herald Tribune, quindi ecco, grandi firme, una cura particolare delle foto, dell'impaginazione, saggi monografici. E poi, come dicevi te, mi è sempre piaciuto sempre innovare, no? Guardare sempre al futuro. Quindi abbiamo edizioni digitale, realtà aumentata, abbiamo un web con TV, radio, blog, un canale social con 50.000 utenti, organizziamo il Jazzit Fest. Insomma, siamo vivi. Ecco, e parlando di digitale e di internet, adesso c'è una nuova iniziativa, non so se posso svelare. Sì, sì, sì. Ecco, sì, perché sì. Vedo che è già online, ovvero questo Italian Jazz Hub.video, che è un sito nuovo, probabilmente il sito di riferimento per la comunicazione jazz di artisti più o meno giovani. Esattamente di cosa si tratta? La mia idea, che abbiamo sviluppato con il Jazzit Fest, non nasce da questo, dal fatto che spesso senti straordinari musicisti che sono ormai scollegati dai grandi festival, dai club, cioè c'è una grande frattura di conoscenza tra chi agisce in questo ambito, quindi tra musicisti, addetti ai lavori, appassionati. Quindi la funzione di un editore dovrebbe essere, secondo me, non solo quella di riflettere sul testo, ma quella di creare le opportunità per una promozione della musica. E quindi col Jazzit Fest abbiamo creato un evento fisico dove l'idea è per 3 giorni, dove si creano delle connessioni di corpo. E in questo caso invece Jazz Hub è una rete sociale, professionale, un po' come LinkedIn, però dedicata al jazz. In sostanza tutti possono esporre in questo grande expo virtuale planetario, esporre la propria musica attraverso i video. Quindi okay. Non è un portale realizzato ad uso esclusivo di artisti giovani, quindi anch'io che sono, assolutamente, tra virgolette, un veterano, o la mia casa discografica, posso utilizzarlo. Hai 25 anni te, no? Sì, ha una gamba, anzi anche un po' di più. Il concetto è per tutti coloro che fanno industria con il jazz, devono abitare in questo luogo, questo è il nostro desiderio. Sicuramente Jesit avrà recensito nel periodo di distribuzione questo album meraviglioso intitolato Past Present, anticipando, così come abbiamo fatto noi al Soundcheck, il successo all'ultima edizione dei Grammy Award, perché infatti questo album con protagonista John Scofield ha ricevuto il Grammy Award come miglior album di jazz del 2015. Sì, John Scofield rimette sull'organico con il quale si era già divertito nei primi anni 90, Joe Lovano al tenore, Bill Stewart alla batteria, Larry Grenadier al contrabbasso. Il brano si intitola Enjoy the Future qui al Soundcheck di Radio 24. Past Present, sì, la bellezza di un disco contemporaneo che si rifà alla storia del passato del jazz, ma con il suono nuovo, come sempre, innovativo di John Scofield qui al Soundcheck Radio 24. Questa sera nostro ospite è editore, direttore di Jazzit, Luciano Vanni, proprio per parlare di comunicazione. Va bene, se appartiene a una casa discografica importante, magari distribuita da una multinazionale, se sei un artista ormai accreditato da tanti anni, non ci sono più o meno problemi nella comunicazione, che so, della pubblicazione di un nuovo album o di concerti. Ma i giovani artisti come si relazionano, per esempio, con la tua rivista? Come li consideri? Che tipo di esposizione dai loro? Allora, essere indipendenti, io mi ritengo un editore indipendente, significa selezionare esclusivamente in funzione della qualità. Esclusivamente in funzione, noi siamo, come si dice, un anello di congiungimento tra l'industria e il lettore. Quindi il mio socio, il mio riferimento è il lettore. Più fornisco un servizio utile al lettore e più ho futuro. Servire il lettore significa fargli capire cosa sta accadendo oggi e fargli capire cosa è stato ieri, no? Ma soprattutto oggi. Quindi per me è fondamentale comunicare l'oggi. I musicisti ormai ci comunicano tramite WhatsApp, SMS, tramite Facebook, Twitter. Ormai il CD è secondario, per certi versi arrivano link su SoundCloud, su Bandcamp. Spotify. Quindi succede anche con gli artisti italiani, perché fuori, noi lo diciamo spesso, sono molto utilizzati questi siti. No, assolutamente. Sì, ormai diciamo è sdoganato il servizio. L'unica cosa che io invito sempre a fare ai musicisti è di essere educati, nel senso di spesso c'è, cioè, subito mi fai l'intervista, mi fai la recensione. Secondo me è molto importante, e ci sono sempre di più fortunatamente persone che si relazionano in modo giusto, facendo capire che l'interlocutore non è al servizio ma è un collega. Quindi si sta lavorando, però è bello anche lavorare tra educati. Ecco, beh, d'altra parte poi è bello parlare bene di cose belle piuttosto che criticare qualcuno. Insomma, criticare è sempre un po' antipatico. Assolutamente, no? Cioè vince la musica e vince il servizio che noi dobbiamo fare al nostro lettore. Allora, stiamo per andare ad ascoltare anche l'informazione di Radio 24. Direi di andarci con grande musica, come sempre, qui dal Groovemaster Studio. Wayne Shorter, vai a ascoltiamo Wayne Shorter da Speak No Evil, 1966, che formazione! Freddie Hubbard alla tromba, Herbie Hancock al pianoforte, Ron Carter contrabbasso, Elvin Jones alla batteria. Soundcheck, il suono della musica. Seconda parte del Soundcheck di Radio 24. Torniamo qui dal Groovemaster Studio con la voce di una veterana del jazz, Catherine Russell, album molto piacevole intitolato Bring It Back. Perché, mio caro Luciano Vanni, direttore, editore della rivista Jazzette, io provo ancora piacere ad ascoltare il suono, quello mainstream, quello che mi riporta indietro del tempo e che mi fa scoprire sempre della bellezza. Quindi non solo sono concentrato sulla ricerca, sulla novità, sui musicisti contemporanei, quelli che rappresenteranno il futuro, ma continuo ad avere il piacere ad ascoltare le vecchie pubblicazioni oppure bellissime voci che si rifanno al passato. Alla tradizione, sì. Ha detto una parola, secondo me, che è il grimaldello, bellezza. Dobbiamo, secondo me, tornare tutti, è un impegno che dobbiamo assumere noi che stiamo nel mondo specifico del jazz, ma forse dobbiamo richiamare anche le tante piattaforme editoriali nazionali a far questo, ritornare a parlare delle tante cose belle, ci sono nel jazz, ci sono nel rock, ci sono nella classica, che spesso vivono nell'ombra, e invece il nostro compito è quello di comunicarlo. Quello che stai facendo te è questo, perché secondo me ci sono gli spazi delle praterie immense. E allora a quel punto viene meno il termine mainstream, il termine ricerca, il termine degli stili. Dobbiamo, secondo me, dare curiosità al pubblico, dobbiamo farle ascoltare anche cose diverse, dobbiamo non dare solo ciò che il pubblico si attende di ricevere, ma provare tutti a far ascoltare, che poi arriva anche delle nuove generazioni, le cose che, almeno questa è la funzione dei comunicatori, le cose che non si ascoltano, ma che producono bellezza. E ce ne sono tante, Gege, tantissime. Sì, tu dicevi probabilmente mancano le piattaforme, cioè le piattaforme ci sono, però mancano gli spazi, manca, che ne so, forse il direttore artistico, parlando di radio, appassionato di jazz, che ha l'attenzione di selezionare magari i brani giusti, gli artisti giusti per quella fascia oraria, perché si ragiona così in radio, no? Cioè la musica viene utilizzata per determinati orari e determinati contenitori, però è completamente assente il jazz, ma anche la musica classica, dalla radiofonia italiana commerciale. Sì, questo è un vizio, perché si parte dal presupposto che non esiste un pubblico. La mia idea invece è che il pubblico va educato, no? Il termine cultura, cultura sì. Viene da accogliere, coltivare, ma educare, prendersi cura di. Sì, credo che basterebbe avere il buon gusto, se non il coraggio, di mettere in onda, che ne so, David Bowie, non solo in occasione della sua scomparsa, o Frank Sinatra non solo in occasione del suo centenario, perché poi Michael Bublé invece viene suonato nelle radio, no? Sì, ripeto, il termine l'hai detto te, bellezza. Dobbiamo restituire e rendere pubblico e manifestare in maniera pubblica la bellezza, che è un tema che avvolge la classica, il jazz e il blues. Ci vuole un po' di coraggio e un po' di sensibilità. Però chi comunica non può non avere coraggio. Ecco, un coraggio da vendere, da leonessa lo ha sempre avuto Didi Bridgewater, che ha fatto di tutto, ha cantato di tutto nella sua carriera in organici più o meno estesi, ha fatto teatro, ha fatto cinema e continua ad avere grandissimi consensi a ogni pubblicazione discografica e a ogni concerto, una vera pantera. E questo è anche un po' il segreto del jazz, che noi soprattutto in Europa e quindi anche in Italia abbiamo dimenticato il senso dello show che invece in Didi Bridgewater è presentissimo. Bravissimo, il termine entertainment, che era la base della musica pop popular, e lei ce l'ha, lei cura ogni minimo dettaglio ed è sempre attuale. The Jody Grind, ora Silver, questa è la versione vocale di Didi Bridgewater al Soundcheck. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. Eh sì, il jazz italiano qui al Soundcheck, rappresentato dal pianoforte di Claudio Filippini, una composizione di Oliver Nelson, immortale, Stolen Moments, rivisitata da Claudio Filippini con Luca Bulgarelli al contrabbasso, Marcello Di Leonardo alla batteria, da Squaring the Circle, nuovo album per Claudio Filippini per la Cam Jazz. Questo è il Soundcheck, nostro ospite Luciano Vanni, direttore editore di Jazz It, pronto già per organizzare il cartellone del prossimo festival, Jazz It Festival, che si tiene dove e perché soprattutto? Allora, sì, innanzitutto si tiene, quest'anno diventiamo itineranti, perché dopo 3 anni organizzati in Umbria abbiamo visto che la formula funzionava, aveva un senso. E il senso qual è? Il senso è quello di dire: io sono un editore di rivista di jazz, ho contatti quotidiani col mondo dei musicisti, degli operatori del settore, incontriamoci 3 giorni in pace e scambiamoci informazioni, e soprattutto non suoniamo. L'idea del Jazz It Fest è quello di un programma che si alimenta dal basso. Io non chiamo nessuno, sono direttore di Jazz It, non posso permettermi di invitare nessuno, quindi è un programma che si alimenta di persone e di musicisti, creativi, fotografi, produttori che vogliono esserci per scambiarsi informazioni. Infatti io parlo solo di residenze creative, persone che si fermano 3 giorni e vengono solo per scambiare musica, prove, arrangiamenti, produzioni con gli altri. Quindi è il primo festival al mondo in sharing economy, nel senso che tutti collaborano collaborando con gli altri. Tutto ciò che viene prodotto, l'anno scorso sono usciti fuori intorno a 60 registrazioni discografiche, sono royalty free. La dimostrazione è quella che il jazz è un io collettivo, che siamo un'industria, che ci vogliamo incontrare per scambiarsi opinioni, informazioni e per dimostrare che siamo importanti. Noi ogni anno ci organizziamo, chiaramente senza contributi pubblici, abbiamo un codice etico, che tra l'altro abbiamo meritato il patrocinio UNESCO, abbiamo avuto una good practice europea, una buona pratica firmata La cultura che vince, andiamo in un comune e il comune fa inclusione sociale con la musica. Tutti i musicisti e tutti gli addetti ai lavori abitano le case, i luoghi, la gente ospita i musicisti e quindi diventa un grande rito. E quest'anno, ripeto, diventiamo itinerante, ogni anno scegliamo una regione. Quest'anno andiamo a Cumiana, che è un piccolo comune vicino a Torino, in Piemonte. Benissimo. Allora, tu hai citato prima l'UNESCO e non vorrei perdere l'occasione di ricordare che il 30 di aprile proprio l'UNESCO ricorderà il jazz con l'International Jazz Day. Quindi in tutto il mondo concerti di jazz per ricordare la bellezza, ritorna questa parola molto usata in questo momento anche nel nostro paese, la bellezza del jazz e tutto il bene che la nostra musica ha fatto e rappresenta ancora oggi. Quindi molti concerti ci saranno anche in Italia, ma come è cambiato? Ultima domanda, abbiamo pochissimo tempo, Luciano, mi dispiace, ma tu puoi tornare a trovarci quando vuoi. Parlando di jazz italiano, visto che stiamo per proporre anche due generazioni a confronto, il pianista Domenico Sanna e il batterista Marco Valeri, che incontrano Giorgio Rosciglione, un album di qualche anno fa, il brano si intitola Happy Fruits, scritto da Marco Valeri, ma che ci riporta indietro nel tempo. Quindi due generazioni a confronto, visto che noi organizziamo un International Jazz Day con tre generazioni di musicisti oltre 50. Una grande come festa. Si è evoluto il jazz italiano, quanto è forte il jazz italiano in ambito internazionale, cosa ci manca velocemente? Cosa ci manca? Niente, solamente una propensione internazionale, sapere che l'Italia ha un piccolissimo pezzo di mondo. Ma cosa ci manca per esportare i nostri musicisti e i nostri dischi? Perché gli americani invadono i nostri festival, giustamente, non possiamo dire che non li vogliamo assolutamente, siamo cresciuti con loro, ma perché il nostro jazz fa ancora fatica? Non si è sviluppata un'industria, nel senso che sono più avanti i musicisti che non le case discografiche, festival, promoter, nel senso che se tu analizzi la Germania, in Germania ci sono tantissime aziende che lavorano in ambito jazz. Da noi, chi ha fatto la casa discografica generalmente o il festival è l'appassionato, l'avvocato, l'imprenditore che amava il jazz e quindi dedicava attenzione da appassionato, che è straordinario, però serve anche un'industria. In Germania ci sono 4-5 etichette discografiche che fanno volumi. Ci sono grandi festival che sono diventate società. Noi siamo rimasti a uno stato epidermico di appassionati prestati al jazz. Quindi il problema è che c'è una grandissima generazione di musicisti italiani, ma non c'è un'industria. L'industria è quella che fa fare il salto di qualità a livello internazionale. Quindi io mi auspico che sempre più persone abbiano passione per il jazz, ma investono e diventino pezzi di un'industria, cioè il PIL del jazz italiano dovrebbe crescere, ma deve accompagnare voi musicisti in un percorso. Nel frattempo aspettiamo che cresca anche quello del nostro paese, oltre a quello del jazz. Di conseguenza, dici tu. Penso di sì. Gli forniamo lo 0.01 di PIL. Grazie, in bocca al lupo per tutte le tue iniziative. Grazie a Luciano Vanni, editore, direttore, responsabile di Jazz It, bellissimo magazine. Grazie anche per avermi portato questo numero di gennaio-febbraio con il grande Frank Sinatra in copertina che avevo perso. E quindi a tutti voi buona serata, buona settimana e buona musica da Giorgio Telesforo. Vi lascio con il trio di Domenico Sanna.